30. Your engine is on. Ricordo il telefono 0649 1750, storico telefono. Da sempre abbiamo questo numero praticamente. Poi il sito è www.ondarossa.info. Ricordo la nostra esigenza di autofinanziamento, quindi sul sito della radio si possono trovare le varie modalità di adesione. Ricordiamo poi l'appuntamento del 31 dicembre fuori Ribibbia, la mattina del 31 dicembre, in questi giorni se ne parlerà ancora di più e quindi aguzzate i sensi. Io saluto Alberto Clipper di MDMA, Barbara Caridi qui a Roma, Massimo a Torino, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. Abbiamo graditissima Anna qui a Roma. Venusia Zozzetta Stramonio, fedelissima anche lei. Un saluto a Tiziano Zeno Farinacci, DP Greco, Pifite Flea e Lesia Rex in quel di Brescia. Un saluto al Antonio Tonietti, che chiameremo in causa nell'album di Gianluca Becuzzi, Black Mantra, che manderemo in trasmissione. Abbiamo Enrico Marchigiani di Blocco Nero, un progetto notevolissimo di post rock. A Boston, Des De Carlo, Giovanni Lisi di Cordi Cinti Serpente, un grosso abbraccio anche a lui. Un saluto ad Ernesto Panico Brusati di Panico da Palcoscenico. Abbiamo Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Noise Cluster con Flavio Derbecanta, Arianna Degni Lombardo. Saluto a Luca Giuoco. A Taranto Doriana Panico, Francesco Cornello. E poi la grande ambient scura di Like a Wick, Stefano Di Serio qui a Roma. E dall'Italia andiamo ad iniziare con un'ultimissima uscita di un artista che credo tra le migliori per quanto riguarda il panorama italiano, più vicino a un certo approccio esoterico ritualistico, e sto parlando di Aima Project, che in passato militò anche in Les Jumeaux Discordants. E quest'anno ha stampato questo interessantissimo album dal nome Carmina in Spiritum. Cantato in italiano, in latino, eccetera, eccetera. E quindi lo cominciamo a conoscere e credo anche ad apprezzare, per chi starà all'ascolto, con Invocazione alla Musa e Astrorum Spiritui. Thank you. la bella voce di Aima Project e la ispirazione musicale così enigmatica, misterica, esoterica. La marmorea bellezza di questo album, questo Carmina in Spiritum, uscito quest'anno. Per quest'artista che la ricordiamo con gli splendori di Les Chemins Discordants di qualche annetto fa. Buonasera, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. E vengo anche immortalato da Venusia Zazzetta Stramonio, veramente non si riesce a passare inosservati. Ma d'altronde il prezzo della talvolta in buona fede sovraesposizione che ci sono in queste situazioni social. Torniamo alle cose serie, è vero Giovanni Lisi, voce bellissima quella di Aima Project, una delle migliori nel panorama italiano, ma naturalmente non solo. Rimaniamo in Italia, qualcosa di più siderale, cosmico a tratti, in altri tratti più death ambient con risvolti elettronici. Trattasi di Koyanis Nikoi che ci ha tenuto compagnia in queste settimane ed ascoltiamo l'ultimo passaggio per questa stagione e per questo disco che porta lo stesso nome. Il brano di chiusura dal nome A6. E dunque Andrea Doro con il suo album e progetto Noyanis Nakoi. Belli questi fremiti, questi fraseggi elettronici che arricchiscono questo disco molto interessante, uscito anche questo qualche mese fa. Ricordo ancora una volta attraverso la ISM, questa realtà ultrasotterranea proveniente da Taranto. E torniamo a qualcosa di ritualistico in questa circostanza ancora più tribale ed etnico, e sto parlando di Gianluca Becuzzi, anche lui ultimamente molto presente nelle mie personali playlist di prove tecniche di trasmissione. Un ulteriore passaggio per quanto riguarda Black Mantra. Album che dal punto di vista della fisicità si divide in due CD, e noi ci ascoltiamo la seconda parte della prima traccia del secondo CD, ossia Kundalini Rising. La seconda parte di questa Kundalini Rising, traccia che apriva il secondo CD contenuto in Black Mantra, una traccia composita e composta da elementi etnici, tribali, mantrici, ma anche con echi dorziani e stacchi naturalmente di doom metal, qui più dilatati rispetto a quelli più imperiosi presenti nel resto dell'album. Un ultra produttivo Gianluca Becuzzi in questo 2023, già che ha stampato ben due lavori. Anche questo esce attraverso la Silentes Stand, gloriosa realtà italiana. Saluto Tania qui a Roma. E Marcello Buffetti di Monum, ottimo progetto elettronico. Dopo molta Italia ce ne andiamo in Georgia. Daria Kazemira, Zura Macarazze, duo magico che compone e ha composto Songs from an Obscure Matriarchal Tribe, un lavoro tra i migliori della Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella, lavoro anche qui con afflato etnico ma soprattutto con clanglori industriali molto alla Sturzende, Noi Baiten. Teniamo conto che questa è una performance che si è tenuta in un monastero proprio in Georgia. Improvisational Evocation of Dissected Tuba è la traccia conclusiva molto lunga che questa sera comunque cominceremo ad ascoltare almeno per la sua metà. Ooh. Ballami, tasso narrauas, esima fragi, eresin esquima, ore, ore, ore. Avramo, avramo, avramo, glori, avramo anche nel campo dell'industrial. Effettivamente ci sono molte molte voci femminili di valore, e evidentemente anche Daria Kazimira e Zura Macarazze rientrano nel novero di queste eccellenze. Un probabile anche canto bitonale praticato da entrambe, chissà, o da una delle due. Vanno ad arricchire ancor di più Improvisational Invocation of Dissected Tuba, anche con l'apporto della tuba stessa. Ricordo performance nel monastero di Kamir in Georgia. Materiale prodotto e fatto girare da Raffaele Pezzella attraverso la sua Nespresso Sounds Group Label. Ora torniamo in Italia, esattamente in Sardegna. Come già detto in passato, la Sardegna è una terra piena di talenti, ma d'altronde la scena italica stessa è piena di meravigliosi progetti esoterico-industriali, noise, insomma una grossa tradizione negli anni. E questa sera analizziamo OAR, ultima fatica di Hermetic Brotherhood o Luxor. Mirko Santoro e Laura Dem compongono questo progetto. Ci godiamo Sea of Horoth e Ear Hor Texas. Da Macomer in Sardegna provengono Hermetic Brotherhood of Luxor, Lauro Derme e Mirko Sontoru, trasuda ritualità e anche, diciamo, rapporto con la terra d'origine, ma anche la componente noise fa sì che sia un vero e proprio viaggio mentale, anche mentale, questo ultimo loro lavoro. Mi fa piacere che sia apprezzato dai più. E storica è anche l'attività della Transponsonic, una label che da molti anni nobilita il panorama industriale e d'avanguardia italico. Ancora Italia, un nuovo nome da andare a conoscere e apprezzare insieme. Si chiamano Zero Group. Zero Groove nasconde in realtà Giuseppe Fantini e è un artista che proviene dalla Toscana. Ed a proposito, diciamo, di variazioni noise, andremo un po' a verificare la presenza di questa componente in questo Everyday, una copertina che fa pensare tutt'altra cosa, come potrete vedere nel profilo Bandcamp che a breve linkerò proprio sulla chat. E ci andiamo ad ascoltare tre brevi estratti. Allora, Any Pain, Everyday Every Night, Walking with Pedro.